Bene, abbiamo ascoltato l'intervento di Anna Pizzo, che possiamo considerarle come le conclusioni della mattinata, forse per Luigi. Sì, queste erano le conclusioni di stamattina, quindi anche noi in qualche modo adesso ci fermiamo un attimo. Sì, perché diciamo a chi ci ascolta che ora ci sarà una pausa pranzo, appunto. Errata Corrige, c'è Francesco Caruso, quindi diamo subito la linea in sala. Sì, sì, Errata Corrige, perché anche Francesco ha esigenze di tempo e quindi è opportuno che intervenga. Che c'è intorno del mondo che gira attorno a noi. Io sono completamente d'accordo sulla descrizione dello scenario inquietante che ci abbiamo di fronte, lo scenario di questa guerra globale permanente che delimita sempre di più gli spazi di agibilità democratici, gli spazi di agibilità per i movimenti, e che significa restringimento delle libertà personali, che significa restringimento anche degli spazi di conflitto nel nostro paese, e quindi anche di quel binomio conflitto uguale devianza criminale che si fa sempre più avanti. Questo è il contesto che noi ci troviamo di fronte, ed è inquietante il risultato a cui oggi noi ci ritroviamo, con 8.000 procedimenti giudiziari, 15.000 compagni inquisiti, ma soprattutto con un salto di qualità, non solo quantitativo, ma anche qualitativo, dell'ondata di criminalizzazione che colpisce i movimenti e gli attivisti sociali. Penso all'esempio appunto di un'autoriduzione del cinema che diventa eversione all'ordine democratico, o una diffusione di volantini che diventa divulgazione di stampa clandestina, senza poi citare l'esempio di Cosenza, che sembrava nella sua assurdità, sembrava appunto una parentesi nera di un pazzo magistrato che appunto è uscito fuori ha fatto la pipì fuori dal cesso, si dice dalle nostre parti. Invece appunto il problema è che questa pipì fuori dal vaso diventa sempre più una ordinaria amministrazione della gestione del conflitto nel nostro paese, e quindi appunto ci ritroviamo con i compagni che vengono inquisiti per devastazione e saccheggio semplicemente perché hanno resistito a Genova, o il movimento di lotta di Napoli per dei disoccupati che diviene un'associazione a delinquere finalizzata all'estorsione di posti di lavoro, e noi con questo contesto ci dobbiamo fare i conti, e ci dobbiamo fare i conti anche con un altro problema, che è il problema di questa sala. Io non so se vi rendete conto, ci rendiamo conto di quello che è questa sala. Se noi vediamo un po', qua ci sono i compagni parlamentari di Rifondazione, qui ci sono i nostri fratelli, compagno Bobbo sempre presente, e siamo noi che siamo venuti dall'Appennino, e non c'è nessun altro. Eppure questo cinema, se ci riflettiamo, 3 anni fa un'iniziativa, quando venne Luca, Vitaliano e Bettin a parlare di Porto Alegre, era strapiena. Quando noi eravamo in vacanza a Viterbo, ospiti del Dipartimento di Amministrazione Penitenziario, voi qua avete svolto un'assemblea che mi dicono, io poi non ho partecipato, era strapiena, e oggi ci ritroviamo invece a discutere in un modo molto ristretto, e io ringrazio profondamente i compagni che hanno organizzato questo dibattito per avere avuto il coraggio e la perseveranza di mantenere aperta una finestra di confronto e di dibattito malgrado lo stato evidente di difficoltà in cui riversa oggi il movimento, e questo va dato atto, perché io credo che noi dobbiamo ricominciare a discutere e dobbiamo ricominciare a ragionare su come rilanciare il movimento. E su una vicenda, appunto, noi oggi avevamo un'udienza in tribunale, io sono particolarmente preoccupato, non so nemmeno le ragioni, e spero che siano appunto problemi di ordine tecnico, personale, non ci siamo nemmeno noi 13 imputati, ci mancano moltissimi dei compagni che sono sotto processo a Cosenza, e quindi un calo di attenzione. Che è l'assurdità, è che noi stiamo discutendo di fronte a questo scenario come che, se invece ci abbiamo fuori qui le truppe di bolscevichi pronti a dare l'assalto al tribunale di Cosenza e processare Domenico Fiordalisi. Purtroppo non è così. Di questo noi dobbiamo capire come invece ricostruire una trama di movimento capace di dare una risposta efficace a questa ondata di criminalizzazione, a questo clima tetro nel quale noi oggi viviamo. E questa trama, cari compagni, la dobbiamo ricostruire con la pazienza e la perseveranza che negli anni abbiamo sempre saputo dimostrare, costruendo conflitti, costruendo dinamiche di auto-organizzazione sociale nei territori. E su questo aspetto specifico, che io credo fondamentale, che è la questione dell'amnistia generalizzata, che io credo che sia la battaglia che oggi ci deve vedere tutti schierati, non solo per il problema personale, come si diceva prima, che qua nel giro di non più pochi anni ma pochi mesi tanti di noi hanno appunto le porte del carcere che si aprono e che poi non si sa nemmeno quando si chiudono, perché poi si stanno assommando e accumulando processi, procedimenti, condanne, denunce, e quindi è una prospettiva un po' inquietante. E allora vogliamo capire come costruire una campagna di lotta sulla questione dell'amnistia, premesso che non possiamo certamente attendere la benevolenza di questi signori che si accingono ad andare al governo. Perché io sono, sentendo appunto, che ne so, la Livia Turchio sui CPT o Violante sull'amnistia, insomma, ci credo poco nella loro benevolenza nei nostri confronti. E quindi o creiamo un forte movimento di pressione dal basso, di conflitto, di mobilitazione sociale, oppure l'elargizione e l'elemosina del centrosinistra non è una soluzione, come non credo che la scorciatoia di porre attraverso una candidatura alle primarie per porre questi temi possa risolvere questo problema evidente che è questa sala vuota. E i problemi si vanno affrontati alla radice e vanno affrontati attraverso la costruzione di comitati di lotta dentro e fuori le carceri, di forme di auto-organizzazione che pongono questa questione come questione della libertà, come questione del principio fondamentale appunto del destino non solo di noi ma dei 60.000 detenuti nelle carceri, dei consumatori, dei milioni di consumatori di sostanze, che ponga il problema di un proibizionismo che colpisce ormai il 32%, un ragazzo su tre che non si può più fare una canna, che sennò finisce in quegli altri CPT che stanno predisponendo, che è quello appunto per i cosiddetti drogati. E quindi i drogati, gli occupanti di case, le forme appunto, i migranti, tutti questi che sono i soggetti che oggi si muovono sul terreno, ormai sul crinale della legalità e dell'illegalità, devono trovare forme di lotta e non di autorappresentazione nel quadro istituzionale, nel teatrino della politica. Un teatrino della politica che io sono d'accordo che appunto va attraversato attraverso delle incursioni, va anche trovato canali di dialogo e di confronto e di interlocuzione con questi soggetti politici che pongono oggi un interessamento rispetto ai tuoi temi, ma non può questo essere il terreno fondamentale della costruzione di una battaglia e di una campagna di lotta per l'amnistia, perché altrimenti abbiamo sbagliato tutto. Altra cosa è appunto, io non sulla questione della possibilità di spazi di manovra con un governo di centrosinistra, io non lo so. Ho delle mie riserve, mi piace molto Silvio Berlusconi quando fa le sue leggi, tipo appunto quella che è uscita ieri, che non permette in secondo grado, una volta assolto, di essere inquisito. Sicuramente lo aiuta lui nel processo SME, però aiuta anche tanti di noi. La legge sulle intercettazioni, io potrei continuare, una provocazione che pongo. Anche la legge Cirilli, se non faceva l'emendamento Bobbio, era perfetta, che ci levava un sacco di guai. Beh, quello che dico appunto è una provocazione, ma la pongo appunto per far capire che il problema non è l'interfaccia con il sistema appunto legislativo, con il sistema della rappresentanza, ma quello che noi ci dobbiamo porre in questa sede è la capacità di costruzione di movimento, quella dimensione che prima diceva Anna, che siamo riusciti a costruire a Genova, sulla quale siamo riusciti a far precipitare tantissime realtà individuali, collettive, su una dinamica di violazione della zona rossa, quindi di illegalità diffusa. E quella è la condizione che oggi noi dobbiamo porre per ricostruire una trama capace appunto di riaffermare diritti, riconquistare libertà, praticare forme di conflitto che siano anche un antidoto rispetto al clima della guerra globale permanente che ci abbiamo di fronte. È una scommessa difficile, c'ha tempi forse molto lunghi, purtroppo non possiamo farne a meno. Io lo so, molti di noi sono orfani di quella generazione, di quel movimento, di quella grande effervescenza sociale che ha caratterizzato gli ultimi anni. Siamo orfani, ma dobbiamo riuscire noi dal basso a ricostruire quella trama. E quindi appunto credo che le scorciatoie anche che si possono individuare attraverso soluzioni politiciste, soluzioni appunto su un terreno scivoloso nel quale il movimento viene mortificato, come diceva prima Paolo Cento, sul suo terreno della capacità di attrattiva, di costruzione appunto di una potenza che è quella del movimento, che non può essere deperita invece in una dinamica come quella appunto che credo che sia deficitaria, che è quella delle primarie, perché appunto noi in termini di espressione di democrazia diretta possiamo e dobbiamo fare di più.